Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail. Mi sembra impossibile, ma io mi ricordo perfettamente il giorno del centenario dell'Unità d'Italia, nel 1960. Fu un anno favoloso. Per me era l'anno della prima elementare. A scuola ci fecero costruire la bandierina di carta per poter andare poi fuori. Era un paesello, la piazza era una cosa tristissima, col barbiere, con una specie di bettola. Beh, con la bandierina in mano. Guardate, negli anni 60 non era come oggi, era un pezzo di foglio di carta quadretti e il rosso e il verde era fatto con i pastelli, quindi orribile, erano sbiadite, praticamente erano delle bandierine in bianco e nero. Però eravamo tutti contenti, le attaccammo una matita e andammo in giro con la maestra a fare un giretto. Questa mattina ho attraversato Roma, Roma reduce dai fasti alemanneschi di questa notte di pioggia e di tricolore. C'erano ancora i cingalesi agli angoli dei semafori che vendevano le loro bandiere di plastica, probabilmente fabbricate in Cina, arrivate fino a noi. Questo è il passo, secondo me, di questi 50 anni. La prossima ricorrenza saranno i 200 anni dell'Unità d'Italia e non la vedrò, probabilmente la vedranno i miei figli. Ci saranno le bandiere come ologrammi, esisterà ancora la polemica di chi vorrà lavorare, chi rimarrà a casa, chi farà festa, chi farà il ponte interminabile questa notte, quella ieri sera alle 5, già erano tappate tutte le uscite da Roma, perché figuriamoci, da mercoledì sera a lunedì mattina un ponte così fantastico non se lo sognava nessuno. E poi c'è stamattina c'è chi scende con la scrivania per dimostrare che oggi è un giorno lavorativo. Noi oggi lavoriamo, ma oggi parliamo anche noi comunque di questa ricorrenza. Ne parliamo con Marco Pizzo, il nostro amico direttore del Museo Centrale Risorgimento. Marco, buongiorno. Buongiorno. E ne parliamo con voi perché riprendiamo un qualcosa che avevamo lasciato in sospeso un paio di mesi fa, 2 o 3 mesi fa, quando lanciammo l'idea della gioventù ribelle, di questi giovani risorgimentali, eroi fantastici, veri rivoluzionari, personaggi che assolutamente non sono mai poi esistiti con un uguale spessore di folle utopia nella storia del nostro paese. Erano ricchi, erano belli, erano potenti, avevano soldi, avevano terreni, avevano cavalli, avevano donne quante ne volevano, potevano girare, andavano in Francia, andavano in Inghilterra, giravano l'Europa, però si sono fatti ammazzare. Sono fatti ammazzare per una grande utopia. L'hanno fatto in maniera fantastica, favolosa, nella più bella delle maniere, porgendo il petto al nemico, abbracciati a monumenti, abbracciati a mandorli in fiore, impiccati gridando viva l'Italia. Quindi questa mattina non vogliamo credere che nelle vostre case non rimangano dei residui concreti, delle autentiche reliquie trapassate di mano in mano, di nonno in padre, di padre in figlio, che ricordino il Risorgimento. L'ultima volta lo dicemmo e vennero esattamente 2 giorni dopo, 2 signore da una parte d'Italia che non ricordo bene, a Marco Pizzo ci ricorderà, con una bandiera, la bandiera del loro nonno. Oggi nel mio profilo Facebook vedete la gloriosa fotografia di me di fronte a uno sfondo di cartone che rappresenta Porta Pia, con la madre e la figlia che nell'ossequio della miglior legge della maniglia vennero con questa bandiera e me la offrirono. 800240024. Quali sono i ricordi concreti e tangibili che ancora conservate in casa di questo fantastico momento che fu il Risorgimento d'Italia? Ciappa Cialdini, ciappa Persano, ciappa tot quante stet major, se va Garibaldo, ligint un fas, ui botin te fux te brecassas. Marco Pizzo ci ha portato questa mattina dal tuo museo del Risorgimento alcuni reperti sonori che raramente penso che qualcuno abbia ascoltato alla radio. Di cosa si tratta? Sono di canti d'osteria risorgimentali, che stanno proprio a significare come il Risorgimento fu di fatto un fenomeno popolare, diffuso. Specialmente nell'Ottocento c'erano canzoni, sonetti popolari che stanno a significare proprio che la partecipazione era molto più diffusa di quello che oggi si ritiene. Era sentita anche a livello popolare, perché una delle asserzioni più ricalcate e più usurate che fosse un movimento verticistico in mano appunto a una sorta di aristocrazia che non conosceva bene i problemi di tutto il paese, e poi ci fossero dietro questi grandi movimenti occulti, la massoneria, i grandi gruppi di potere di allora che volevano questa cosa totalmente artificiale che era l'Unità d'Italia. In realtà c'era un sentire popolare, al di là delle retoriche, a ridosso della data fatidica del 1861. C'era una partecipazione diffusissima, e lo sta a significare quello che mi sta succedendo adesso al Museo del Risorgimento. Ci sono nonni, nipoti, pronipoti, figli che vengono con medaglie, attestati di bandiere, attestati di onorificenze, e vogliono sapere chi erano i loro avi. E si tratta di centinaia di richieste. E tu sei in grado di dare possibilità, perlomeno di ricostruire il filo diretto della loro genealogia attraverso questi oggetti? O perlomeno posso dare delle tracce, perché io ho 1,5 milioni di documenti e ci sono tracce significative di queste storie, che poi sono storie personali e familiari. Vediamo se possiamo aiutare l'ascoltatrice Caterina, che è la prima a chiamare. 800 24 00 24, oggetti, reliquie, documenti, brandelli di camicia, ampolle di sangue, schegge d'ossa, tutto ciò che avete del Risorgimento, raccontatecelo questa mattina. Caterina, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti. Cosa conserva di prezioso? Allora, le dico, noi abbiamo questa poltrona in un vecchio palazzo del 600 a Ischia, in Lacquameno, dove pare, secondo i racconti della mia prozia, una poltrona di Garibaldi, che aveva appunto, avevano inserito anche delle staffe, perché era anziano quando venne ospite in questa casa. Una poltrona staffata per metterci Garibaldi. Esatto, ci infilavano dei pali perché era anziano, e quello che mi hanno raccontato era un po' infermo, insomma. Problemi di prostata. Cioè... Esatto, e quindi io non lo sapevo, e quando andavo, ci vado ancora in questo vecchio palazzo, i miei bambini si divertivano invece a saltarci sopra questa poltrona. Perché Garibaldi era amico di una sua trisnonna. Della mia, esattamente, trisavola, che si chiamava Louisa Nesbitt, perché io sono di origini inglesi, americane, con questa casa Ischia c'è stato tutto un miscuglio. E pare che Garibaldi e questa mia trisavola Nesbitt avessero delle, diciamo, frequentazioni a livello proprio politico. Adesso non entriamo nei particolari, cosa facessero sulla poltrona staffata. Sentiamo Marco Pizzo. In effetti Garibaldi andò a Ischia per curare la sua artrosi reumatoide. E si affidò alla signora Nesbitt. Alla signora Nesbitt, che lo ospitò proprio a casa, perché cercava un palliativo per questa malattia che lo affliggeva negli anni di Caprera. Allora, cosa possiamo fare per Caterina, per ricongiungere quello che è il suo ricordo? Lei ancora questa poltrona ne ha disponibilità? Sì. Quindi potrebbe arrivare... No, la disponibilità è lì, e ormai nessuno la tocca più, perché gliel'ho severamente vietato. Ormai comunque i miei ragazzi... Allora, lei cosa grandi. Vuole fare? Fotografarla e mandarci la foto? Oppure Ma vuole... la faccio molto volentieri. Oppure vuole diciamo, sottoporla allo studio di Marco Pizzo, portarla al museo? Non so, io no. Sono... Al museo non lo so, la casa, se vuole, Marco Pizzo può cordialmente invitato... Se ha mai occasione di venire a Ischia, lui viaggia solo se l'accompagno, perché la casa di per sé è tutto un cimelio. Caterina, Marco Pizzo però vorrebbe incendiare tutto, le dico solo questo. Allora, lei il marito lo mandi in vacanza, Marco Pizzo viaggia soltanto se l'accompagno io, perché guardi, sarei onoratissima, perché lei illumina le mie giornate. Va bene, perché... lei allora allontani il marito, tenga la casa al buio, noi verremo a illuminarla. Sì. Io le chiedo... Ci terrei anche aggiungere un altro piccolo aneddoto sempre riguardo a questa storia, poiché Garibaldi, come finalmente qualcuno mi ha saputo confermare, soffriva appunto, ero stato ospite a Ischia, perché non sono mai riuscita a trovare altre testimonianze, questa trisavola, proprio perché aveva avuto anche lei dei problemi di, non so, non riusciva più a camminare, e pare che fosse stato proprio Garibaldi a suggerire, appunto, immagino i primi dell'Ottocento, a questa mia trisavola Luisa, di andare a farsi curare dalle miracolose acque termali. Che fanno miracoli. Sì, esatto, loro almeno così le avevano reputate. Lei riuscì a riprendere l'uso delle gambe ed ebbe poi 5 figli. E in tutto su questa segno sedia di riconoscenza acquistò un'immensa proprietà proprio all'Accameno, e da lì ci fu poi un altro ramo napoletano e ischitano di questa famiglia. Allora Caterina, noi, se lei ce lo consente, prenderemo appunto, la chiamerà adesso Fabrizio Intonti, delle sue coordinate, dei suoi telefoni, e cominceremo a stilare questa lista del contributo Melogmane al Museo Centrale del Risorgimento. La sua poltrona staffata sarà oggetto dell'attenzione di Marco Pizzo e della mia, da un punto di vista giornalistico, sono interessato anche a tracciare la storia di questi oggetti. Quindi si prepari e proceda secondo le indicazioni che l'ho dato poco fa. Vendesi borraccia militare risorgimentale. Si tratta della vera borraccia Guglielminetti, in dotazione all'esercito piemontese nel Risorgimento, in doghe di legno con vimini intrecciato. Da questo modello è derivato il modello della Prima Guerra Mondiale. Bella e sana, in mano risulta solida e compatta. Già sottoposta a trattamento antitarlo e quindi pronta da essere messa in collezione. Prezzo base 100 euro. Questo è esattamente quello che stiamo cercando di fare noi questa mattina, con molta più poesia, molta più passione, che però trasformato nel freddo linguaggio di eBay, notiamo che esiste una grande abbondanza di oggetti risorgimentali che vengono venduti su eBay. Allora, prima di darlo su eBay per 100 euro, non voglio assolutamente porre limiti alla libertà ognuno di sfarsi di ciò che vuole, dateci la possibilità perlomeno di dargli un'occhiata, perché con Marco Pizzo vorremmo studiare una sorta di tour Melogmane risorgimentale. Vorremmo creare una sezione del Museo Centrale Risorgimento fatta proprio degli oggetti che sono usciti fuori dalle strette maglie dell'attenzione documentaristica e storica, e so che ce ne saranno moltissimi, come ad esempio ci conforta Mario. Mario, buongiorno, cosa hai a casa? Buongiorno a tutti. No, volevo dire che noi da generazioni, perché si tratta del mio bisnonno, conserviamo dei cimeli. Lui è stato uno dei più giovani garibaldini, lui abitava a San Colombano all'Ambro, oggi è provincia di Lodi, ed era stato affascinato dai discorsi dei fratelli Cairoli, no? E lui è partito, è scappato di casa e è andato con Garibaldi. Poi, ma diciamo Capizio, che... vuoi sapere, intervieni pure quando vuoi se hai delle importanti richieste da fare. Allora, mi servirebbe di sapere il cognome del nonno. Galleani. Allora, Galleani è proprio uno dei garibaldini che si associò con i Cairoli per partecipare all'impresa di Garibaldi. Cioè, Pizzo sa a memoria tutti i nomi di tutti i garibaldini, quindi... E questo mi fa piacere. E poi diciamo che questo, il fatto del partire con Garibaldi gli ha condizionato la vita, perché poi lui, tornando verso casa, si è fermato a Viterbo e lì ha conosciuto quella che sarebbe poi diventata sua moglie, con molte traversie, perché dato che sua moglie, che si chiamava Luisa Mercati, era figlia di Papalini, questi non gliela volevano dare in sposa e quindi ha dovuto rapirla. E poi lui ha partecipato anche alla lotta per il brigantaggio. Lei qualche oggetti ha, Marco? Andiamo al punto, perché questo noi stiamo... Lo dico in anticipo per evitare problemi. Scusi Marco, noi vi stiamo schedando questa mattina, perché Mario, perché ci serve poi di avere un riscontro. Siete disposti poi a farcelo almeno fotografare questi oggetti? Sì, ma ben volentieri. Ma dove si trovano e di cosa si tratta? Andiamo al punto. Beh, in questo momento si trovano a Torino, no? da mia sorella, e sono alcune pistole, delle fotografie, una medaglia, che quella che gli è stata conferita per l'Unità d'Italia, della corrispondenza, qualche fotografia sua sia da giovane, con questo, quando è partito con questo fucilone che era quasi più alto di lui, no? E poi ci sono degli episodi che purtroppo fanno parte della tradizione orale, cioè che lui, ed è questa la cosa che a noi interessa più recuperare. Queste memorie spesso risiedono solo nelle tradizioni familiari, e queste per noi invece sono poi importanti per ricostruire la storia nazionale, questo intreccio che è la cosa più importante. Quindi saremo costretti a registrare sua sorella o lei e farci raccontare. Ma guardi, le dirò che oltretutto mia sorella è inviperita, perché lei lo sa che questa mattina a Torino c'è il presidente Napolitano, sì, per questo festeggiamento. Mia sorella ha insistito a tutti i livelli per essere presente e le hanno detto che non c'erano più posti, nonostante noi siamo... Sì, ma non porti le pistole a Napolitano, tenga per no, noi. No, per carità, ma lei ci teneva, giustamente, e le è stato riferito da più fonti ufficiali che non c'era posto. Allora facciamo una cosa, guardi Mario, gratificheremo sua sorella. Allora adesso quando io la lascerò, lei darà a Fabrizio Intonti il telefono di sua sorella, chiameremo sua sorella al telefono e ci faremo descrivere con dovizia di particolari le pistole e gli oggetti, così la faremo felice questa mattina e non sostituiremo il Presidente della Repubblica. Io la ringrazio, ringrazio. Le voglio solo dire una cosa, sì. Che però al di là di tutti i suoi difetti, Craxi aveva fatto coniare delle medaglie che sono state consegnate con un attestato a tutti i discendenti dei Garibaldini. Beh, Craxi aveva questa passione per Garibaldi, onestamente. Ah, io ho una stampa ottocentesca appesa di grandi dimensioni che insomma per ricordarmi sempre di questo personaggio veramente incredibile. Vabbè, adesso Craxi ancora è di troppa recente esistenza per entrare nei musei, ci accontentiamo dei cimeli Garibaldini. Grazie Mario, passo a Fabrizio Intonti così avremo il telefono della sorella. Vendesi bellissima incisione tratta da un libro del 1884 sui patrioti del Risorgimento, che ritrae l'intera famiglia Cairoli. Misura immagine 20 cm x 27. Prezzo di partenza 15 euro. Salvatore, buongiorno. Buongiorno. Intanto mi raccomando, 80024, 0024, seguite l'esempio dei nostri primi ascoltatori. Sì. Lei cosa ha? Dica. Cosa ha da offrirci questa mattina? Senti, io purtroppo ho 85 anni e non sento bene. Lo so, è brutta. Ecco, anche. Le volevo dire, in occasione della ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia, io mi ricordo che mia nonna era siciliana e cantava una canzone, un inno che io non capivo le parole. E allora io chiedevo a mamma mia, dicevo, mamma, ma che dice nonna? E mamma mi diceva quello che cantava nonna. E quindi io glielo posso dire, sia in siciliano perché è più originale, sì. Poi glielo traduco nel caso in italiano. E allora, le serve la musica o ce la fa da solo? Allora nonna cantava così, perché nonna era garibaldino, era dall'epoca di Garibaldi. E quindi cantava così, è lo Virdi, bianco e rosso. La bandiera si innalzò con una maniera che abbassare non poti più, fuoco sopra fuoco, sa va vincere o morì, e l'uvir di bianco e rosso la bandiera si innalzò. Ora, tradotto in italiano, cantando l'inno di Garibaldini. Bianco e rosso la bandiera si è alzata in un modo tale che non si può più abbassare. Ma parlava del nonno, parlava fuoco, quindi bisogna sparare contro gli oppressori, no? Va bene, abbiamo capito, ci fermiamo soltanto un secondo. Marco Pizzo, di cosa si tratta questo inno di benaugurio naturalmente? Si tratta dell'inno dei Garibaldini dopo la presa di Palermo del 1860. Quello che noi stiamo recuperando adesso è proprio la matrice prima del Risorgimento, cioè la matrice popolare. La conoscevi così in siciliano come la raccontavi? No, così stretta non la conoscevo. Quindi ci ha già regalato un reperto, noi abbiamo registrato questo signore, abbiamo già dalla voce viva di un nipote la storia dell'alzabandiera della nonna, che mi sembra favoloso, cantata in siciliano. Grazie al nostro ascoltatore, grazie a Marco Pizzo, tra un istante ci riprendiamo dopo le informazioni dalla borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se Melog 2.0. Nasce ufficialmente il 7 gennaio del 1797 la bandiera italiana tricolore, ispirata evidentemente alla bandiera francese del 1790. La scelta delle fasce di uguale misura in tre colori diverse deriva dai vessilli della legione lombarda, che avevano appunto i tre colori bianco, rosso e verde. La bandiera di tre colori. 80024 0024. Non riesco a descrivere l'euforia di Marco Pizzo e mia. Dunque, abbiamo in questi pochi minuti programmato come accadrà l'episodio. Seguirà un gruppo di lavoro fatto di uno storico valente che è Marco Pizzo, di un giornalista raccontatore che sono io, poi ci seguiranno alcune professionalità, un fotografo probabilmente e un bravo operatore. Noi già abbiamo delle tracce vastissime, possiamo andare appunto a Ischia, a cercare la contessa Nesbit che con Garibaldi passava delle bellissime giornate sulla poltrona con gli appoggi appositi, e si salvarono la vita entrambi. E sappiamo che c'è un carteggio fra appunto la signora Nesbit e Garibaldi, che per pudore Pizzo ha omesso di dire prima la nipote, ma è così, in realtà erano amici, molto amici, profondamente amici. Poi potremmo andare a Torino a prendere pistole, bandiere, medaglie del garibaldino, di cui abbiamo tracce storiche, realmente fu un garibaldino, fu uno dei primi e tutto, e abbiamo tantissime altre testimonianze, ci stanno arrivando, e non ultima quella del signore ci ha cantato in siciliano, quella canzone garibaldina, che non avevamo la versione siciliana. Pizzo aveva notizie, storicamente fonti sulla canzoncina, ma non ce l'avevamo. E ridendo abbiamo notato che è una canzoncina salace, piena di doppi sensi, divertente, c'è qualcosa che tende anche a sdrammatizzare la ritualità dell'evento. Abbiamo Roberto. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Cosa lei a Casa di Bello da darci? Io, premetto, mio padre ha 99 anni, è sempre vivo, e mi ha mandato praticamente due medaglie con la rispettiva coccarda, sempre originale, d'argento, di Vittorio Emanuele II, Re d'Italia, e di Umberto I, in successione, che saranno del bisnonno più o meno, del mio nonno che era garibaldino. Ah. E diciamo abbiamo sempre un residuo della camicia rossa che aveva. Questo è interessante, è un pezzo grosso di camicia. Il padre diciamo, è un pezzo consistente di camicia, soltanto un pezzettino di stoffa. No, un pezzo di stoffa che è rimasto, perché si era tenuta praticamente la camicia in cantina. E in cantina, purtroppo, quando siamo andati a trovarla, riprenderla, sarà rovinata. L'abbiamo trovata un po' rovinata. Ecco. Marco Pizzo, direttore del Museo Centrale Risorgimento a Roma, su l'unica questo. L'unica cosa che voglio sapere, scusi, se lo disturbo. Siccome Montefiore a Pisa ce ne sono pochi, se vi risulta al signore lì esperto. Un Montefiori garibaldino, pisano. In questo momento non mi risulta, ma lei può consultare il database dei garibaldini che sta sul sito del Museo del Risorgimento, www.risorgimento.it. Basta che inserisce il nome che ricerca e vedranno fuori tutti i documenti attinenti a questa persona. Ho capito. E anche lei, comunque, prenderemo notizie, perché ci interessano anche gli oggetti che ha a casa. Maria, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Maria, buongiorno. Ha una spada? Sì, no, non ce l'abbiamo più. E dove l'ha messa? Perché mio padre, un grande lavoratore, infatti è stato insignito anche, cioè cavaliere del lavoro, era una persona umile e semplice. Avevamo questa spada con una targa, cioè incisa GG, Giuseppe Garibaldi, 1848. Aveva l'impugnatura di ottone purissimo, bello lucido. E poi la spada, non so se era d'acciaio, insomma, bellissima. Sì, certo, il medico, se la volevano contendere, un perito della miniera del mio paese, di Salgemma, e il medico del paese. Comunque la voce era che fosse una spada di Garibaldi proprio. Sì, perché era dei miei antenati, l'abbiamo trovata in soffitta, noi che hanno partecipato con Garibaldi alle guerre che lui ha sostenuto. Comunque non ce l'ha più questa spada, gliel'hanno presa. Sì, mio padre l'ha regalata, perché lui era una persona semplice, aveva soggezione, quindi gliel'hanno chiesta, nonostante non riusciva a dire di no. Lui non è riuscito, alla fine gliel'ha data, ma noi siamo rimasti così male. Io adesso la rivorrei, se qualcuno. Marco Pizzo, è possibile che questa spada sia stata veramente di Garibaldi, o giravano tante spade di Garibaldi? Nell'Ottocento giravano tante spade di Garibaldi, ma l'informazione più utile è proprio questa, che questi cimeli venivano conservati nelle soffitte e nelle cantine, che conservano veramente la memoria del nostro paese. È una memoria tanto più diffusa quanto umile, quotidiana. Erano qualcosa che parlava più alla famiglia che alla storia. E invece è proprio questa la storia che bisogna valorizzare e ricercare. Poi, diciamo, abbiamo avuto alcuni decenni in cui queste cose erano anche coperte di una sorta di riserbo quasi vergognoso. Tenere le cose garibaldine, ha detto, c'era la retorica risorgimentale come idea. Questo tutto dagli anni 70, diciamo, ai primi anni 90. E oggi ritorna un valore qualcosa che è legato alla nostra storia, quindi non c'è più questo senso di nascondere queste cose che ricordavano momenti che in realtà erano ricoperti di ben altri valori rispetto a quelli a cui venivano attribuiti. Diciamo che negli anni 70 e 80 del Risorgimento si parlava male, perché se ne vedeva la versione retorica e inquinata appunto dal fascismo, che era tutt'altra cosa. Basti pensare che negli anni 70 e 80 il museo mio, il Museo Centrale del Risorgimento, venne chiuso perché non c'erano quasi visitatori. Oggi noi siamo sul 1 milione di visitatori, ma era sorta una sorta di oblio collettivo. Il Risorgimento era una storia che andava rimossa. Adesso bisogna rileggerlo ed è quello che si sta tentando di fare. Allora, è interessantissimo il reperto che c'ha Alessandra. Eccomi. Eccomi. Buongiorno. Allora, pare che mio padre abbia in casa una pipa di appartenuta a Nino Bixio. Io l'ho sempre vista in casa, adesso non è certa effettivamente l'origine, però una pipa molto bella in radica, con un capellino che copre praticamente la parte dove si mette il tabacco, un capellino d'argento a forma proprio con la decorazione tipica del cappellino garibaldino, con un coro di foglie. Allora Alessandra, Marco Pizzo ha il revolver di Nino Bixio e il cappello di Nino Bixio, quindi la pipa di Nino Bixio sarebbe interessante averla. Farebbe un trittico perfetto. Penso che sia un oggetto molto, è un oggetto molto bello, devo dire, molto interessante. Quindi anche lei sarà da noi contattata, dovrà mandarci la foto, e se reputeremo l'oggetto interessante piomberemo come sciacalli a casa sua a toccarla con mano, fotografarla e chiedergliela per la nostra mostra. Paola, ma buongiorno. Volentieri. Grazie. Paola, lei cosa c'ha? Io veramente ho due cose. Una bellissima che mi ricordi di bambina, che è un ventaglio. Un ventaglio tutto di legno, cioè con tutte le scaglie, i pezzi del ventaglio sono di legno, e la bandiera italiana che aprendo si dispiega, no? nei colori. Ed è appartenuto a questo mio nonno Nello, prima ho sbagliato, ho detto Pietro, che ha, e abbiamo anche la, come si dice, l'attestato. Cioè Nello si sventagliava col ventaglio tricolore. Nello si sventagliava col ventaglio tricolore. Ma era un oggetto che da bambina mi colpiva moltissimo, perché intanto era bellissimo, perché era un legno leggero, adesso non so, penso fosse di scaglie di noce, però a differenza adesso ci sono molti ventagli di legno che sono. Allora sentiamo cinesi, Marco però... Pizzo, un minuto solo, Paola, si fermi un secondo solo. Marco Pizzo, questo ventaglio di legno massello del nonno Nello ti ricorda qualcosa? Di allora, noi ne abbiamo uno uguale al Museo del Risorgimento e serviva alle donne che andavano a teatro per sventolarlo alla fine dell'opera in senso patriottico. Ah, quindi aveva un senso. Bellissimo. Quindi ce lo fa vedere e fotografare, Paola. E adesso c'era mio fratello, sì. E poi volevo anche dire un'altra cosa, che mi colpiva moltissimo questo nonno, e prima voi avete parlato, come spesso accade, di nobili, aristocratici, eccetera. Però questo mio nonno Nello Pernicelli, benché noi fossimo una famiglia, cioè quella di mio padre, l'appartenenza di mio padre, con uno zio che era un letterato, che poi è diventato un parroco, uno studioso, a Pienza, eccetera. Però è una famiglia umile. E questo nonno, io mi ricordo che era pelato fin da subito, cioè ancora giovane e pelatissimo. Aveva molto testosterone. No, quando io andavo a trovarlo, a me facevano schifo le mosche, perché io vivevo a Roma, a via Gregorio VII, via, insomma, diciamo. E in campagna mi sembrava una cosa strana le mosche. E spesso c'aveva una mosca che gli camminava sulla testa. Allora io facevo, nonno, ti tolgo la mosca. E lui diceva, no, lascia, mi fa compagnia. E cioè, quasi una cosa zen, no? Allora vedere questa mitezza e poi compararla a quello che è stato invece il suo essere combattente, perché la medaglia l'ha acquisita sicuramente sul campo, è una cosa che mi ha colpito moltissimo e che volevo dire, perché a parte questa parte eroica delle gesta, appunto, e dello sposare un ideale, però io non credo che fosse... Ma lei come ha fatto a conoscere il nonno garibaldino? Scusi, quanti anni ha lei? No, mio nonno, il papà di mio papà. Era garibaldino? Sì, era garibaldino, giovanissimo. Penso che fosse andato 17-18 anni. Adesso mio padre era del 28. Manca una generazione, secondo me. No, io ho 54 anni. Anch'io, ma mio nonno ha fatto la guerra d'Africa al massimo, non può aver fatto il Risorgimento. Ma no, mio nonno. Sì, mio nonno. Il papà di mio papà. Ma noi abbiamo... Io ho 54 anni. Io ho la stessa età sua. Mio nonno al massimo ha fatto la prima guerra d'Africa, non può aver fatto il Risorgimento, quindi lei non può avere un nonno risorgimento. Ma come no? Non è l'attestato che scherza, cioè... Ora che sia andato a 16-17 anni, questo è molto probabile. Ci rientriamo, ma Marco Pizzo, lo giuro, lo, come dire, metto la mia mano sul fuoco, no, ma, senza magari tema di fare la fine di scena. No, ma è suo bisnonno, cioè, secondo me, non può essere. Ma suo. No, è mio nonno. Va bene, non ho dubbi. Marco Pizzo, ti torna. Mi torna come associazionismo garibaldino. L'associazionismo garibaldino è fino agli anni 20. Ma non c'entra come età, però. No, non come risorgimento, c'entra come associazionismo garibaldino, che è cosa diversa. Dice il nonno combattente, però. Combattente. Ma no, cioè, guardi, io adesso. Allora, ci fermiamo un attimo, guardi, no, fermi, no, no. C'è mio no. fratello che arriva a Paola, 20 km Paola, di distanza, no, siccome, siccome casa, però insomma. Si fermi un attimo, Paola. No, devo dare la linea all'informazione del traffico. Rifletta un attimo, poi la richiamiamo appena finita l'informazione, fra un minuto, e cerchiamo di mettere insieme le date, perché onestamente mi sembra un po' difficile, a meno che abbiate delle generazioni molto longeve. A tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt. Del bosco, quell'iselin del bosco, la campagna al volo e quell'iselin del bosco. 800240024, siamo con grande soddisfazione, grande piacere, enumerando i numerosi cimeli del risorgimento che ci sono ancora nelle case degli italiani. Pensavamo che le ristrutturazioni, le censure ideologiche, le purghe mentali li avessero eliminati tutti, in realtà quelli che non sono finiti nei banchi dei rigattieri sono ancora lì ad aspettarci, nei vostre cantine, nei vostri recessi più intimi, e assieme a Marco Pizzo verremo a prenderli, a fotografarli, a classificarli per fare una fantastica fantamostra degli oggetti risorgimentali trovati attraverso la radio. Ci eravamo interrotti, Marco, con l'ascoltatrice Paola, che non riusciamo più a prendere al telefono. Io mi ero un pochino incaponito, perché se l'ascoltatrice Paola ha la mia età, ha un nonno che al massimo potrà essere del 99, come mio nonno, anche tuo nonno del 99, ecco, che sono i più giovani che hanno fatto la guerra, hanno fatto la prima guerra mondiale, la guerra in Libia, la guerra d'Africa e via dicendo, ma non possono aver fatto il risorgimento. No, perché c'è una confusione tra garibaldini e associazionismo garibaldino. L'associazionismo garibaldino nasce alla fine dell'Ottocento, arriva fino al 1920, e le medaglie che probabilmente ha fa riferimento a quel garibaldinismo lì. Avevano ugualmente la camicia rossa. Però l'Italia era già stata fatta. Era già stata fatta, era finita anche la prima guerra mondiale. E che guerre hanno fatto questi? La prima guerra mondiale. Perché io mi ricordo quando mio nonno mi portava il 4 novembre alla sfilata e lui c'aveva tutte le medaglie, c'erano ancora dei vecchietti con la camicia rossa. Erano questi? Erano questi. Ecco, non potevano essere. Dicevano, questi sono i garibaldini. Ma non era possibile che 100 anni prima è stata fatta l'Italia. Io, c'è un'associazione proprio, Nazionale Volontari e Reduci Garibaldini, che proprio ha i documenti su questa generazione, che è la generazione del Novecento. Sì, lo so, perché a Gualdo Tadino c'è il sarto di Barbara Alberti e fa le camicie rosse, me ne sta facendo una anche a me. Angelo, buongiorno. Buongiorno, Nicoletti. Senta, io ho telefonato perché ho un trisnonno garibaldino. Trisnonno, che è il più vicino parente consanguino che può essere stato garibaldino, di un vivente e oggi. Si chiama Giuseppe Numai, si chiamava. E lui appartiene a quella che era effettivamente la piccola aristocrazia di Forlì, e la famiglia Numai è stata una delle più importanti famiglie nobili di Forlì. Lei cosa ha, documentazione o oggetti da sottoporci? Allora, io ho qualche oggetto e poi un pezzetto di storia al quale mi è stata tramandata oralmente. Quindi lei potrebbe, noi potremmo intervistarla, farsi raccontare la storia, vedere gli oggetti che ha e i documenti e collazionarli con i documenti che ha Marco Pizzo. Grazie. Doria, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io ho una mamma che ha 100 anni e si ricorda del fratello di sua nonna che si chiamava Mendonia. Niente, volevo sapere se corrispondeva il cognome a uno dei garibaldini. E si ricorda che lei le raccontava in famiglia che avesse fatto il garibaldino? Sì, sì, sì, sì. E lei l'ha conosciuto, l'ha conosciuto. Quindi lei ha racconti da farci. Marco Pizzo. Ma di quale regione stiamo parlando? Dunque, provincia di Parma e Piacenza. Allora, su Parma e Piacenza esiste anche lì un repertorio dei garibaldini e dei risorgimentali illustri. E anche questo è consultabile nello stesso sito. Ci sono tutti i nomi. E la cosa interessante è legare a questi nomi delle storie. Perché noi spesso sappiamo chi sono, ma non sappiamo qual è stata poi la loro vita successiva. Eh già. Mi scusi, su che sito devo andare? www.risorgimento.it. Va bene, la ringrazio. Grazie. E poi anche lei sarà fra le persone che risentiremo. Andrea. Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Io sono, diciamo, discendente del risorgimento istituzionale, in quanto sì. Mio proprio zio è stato Alfonso La Marmora, il generale. Ah, lei è un discendente di Alfonso La Marmora. Sì. Quindi avrà la casa piena di ricordi. No, cioè, perché siamo, diciamo, appunto, parlo di zii, quindi si parla di frantumazione di eredità. Io di ricordi ho dei... che ci sono rimasti, o delle spille che la regina Margherita regalava ogni suo compleanno alle dame che aveva intorno, fra cui c'era anche appunto la mia poesia. Com'era, delle farfalle? Cosa erano? Erano, sì, delle farfalle, esatto, delle spille a forma di farfalla. È un'antica tradizione comunque, vede? Noi parliamo di contemporaneità, ma è un'antica tradizione che le dame di corte abbiano dei monili a forma di farfalla. Sì, queste erano quelle da infilare nei capelli, nel... E quello che non ho più e che sarebbe stato forse più interessante risorgimentalmente, c'era quando andavo a casa delle mie zie a Torino, che erano due zitelle che vivevano insieme, c'era un tavolo ottagonale e negli otto spicchi, è un tavolo di legno, negli otto spicchi c'erano incise delle immagini di otto battaglie del risorgimento, c'era Pastrengo, Magenta, Solferino. Lei non sa chi è stato venduto? Lo so io a chi è stato venduto. Lo sa lui? Il suo tavolo oggi è alla Fondazione Spadolini di Firenze. Davvero? E sarà messo in mostra nel prossimo ottobre. Davvero? Sì. Va bene. No, però è interessante fare la storia di questo tavolo. Ma è fondamentale fare la storia di questo oggetto. Lo esporranno, ce l'hanno, ma non sanno da dove nasce. Che nasce da un discendente di La Marmora, è interessante. La storiografia di questi oggetti è spesso ignota. Ricostruire la storia di questi cimeli e comunque inserirli nel loro contesto di produzione originale. Quindi adesso lei sarà così gentile, Andrea, di lasciarci proprio i suoi recapiti a Fabrizio Intonti. Noi la sentiremo e ci racconterà il più possibile di questo tavolo. Il tavolo abbiamo trovato, sappiamo dove sta. Loro ce l'hanno, però non sanno di chi era. Sapere che comunque apparteneva alla famiglia di Alfonso La Marmora, secondo me, è un dato molto importante. Grazie comunque. Tiziana Salti, buongiorno. Buongiorno. Lei è consigliera comunale del comune di Torino? Sì. Mi sente? Sì, la sento perfettamente. Perché io ci chiama? Sono in auto e poc'anzi ho sentito che un signore parlava di una sorella residente a Torino che non è riuscita, era molto arrabbiata perché non è riuscita ad avere i biglietti. Sì, fra l'altro è una nipote di combattenti garibaldini alla casa Penascimento. Infatti, una cosa incredibile, io penso di poter cederle i miei biglietti. Allora, lei la ringrazio molto, ci ha chiamato la dottoressa Tiziana Salti, che è consigliere comunale al Comune di Torino, ha sentito l'appello disperato della signora che sarebbe andata con tutte le sue pistole e i suoi cimeli a vedere il presidente Napolitano, ma non aveva il biglietto. Gentilmente, generosamente, la consigliera Tiziana Salti le offre il biglietto, quindi si rimetta in contatto con noi. Grazie Tiziana Salti, grazie Marco Pizzo che si sta leccando i baffi prendendo appunto. Torneremo con voi, cominciate a enumerare, ad elencare, a mettere da parte ricordi, perché faremo questo gran tour dei ricordi garibaldini. Grazie a Valerio Rocchetti, a Fabrizio Intonti, ci sentiamo lunedì. Alors tous deux on est partis dans tourbillon la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.